chi era avanti? Avanti, chi era? Ora, ora. Lei avanti? Daniel, tu sei? Oi Antone, buonasera. Bento, buonasera. Gappa, allora come va? Sto bene? Tutto bene, sto bene. Tu? Anch'io, va. Marioni, mi hai ben incazzarmi. Chi? E allo circolo. Perché? Allora, poche parole è successo così. Cioè, vedano, cioè il nostro tavolo c'erano, loro sono giunti a fumare. E vede sta canta la roba di questi nostri amici, di Sara, cioè di cosa. E vabbè. Cazzo pigliani e si buono in un altro banco di inchiepi. Ho detto scusami, abbi un po' di pazienza. Cioè, lo vedi che c'è la roba sopra, per cortesia, gli ho detto. Chi va a Roma perde la poltrona. Cioè, cosa significa questo? Sei riposato in che da cazzo fatti nei veninocchi, così con la prepotenza, cosa? La giunta scoppa una cosa, gli ho detto, ecco, vai dinni che no, che per pure la borsetta, c'è la borsetta di questa nostra amica e tutto. La giunta poi mi sono un pochettino alterato, gli ho detto, ma scusa, ma ti sembra giusto? La giunta scoppa, ma ero più riguglione, vai, gli ho detto. Poi alla fin fine cosa è successo? Poi alla fin fine lo stavo chiamando per spiegargli la cosa ancora meglio. Cazzo mi ha risposto male, cazzo, da voi chi due è andato? L'amico Giulia mi stava guardando male. Cazzo là mi ho tolto gli occhiali, me ne sono, come si dice, mi sono occupato. Cioè, mi sono commisurato, ha detto a cazzo più bassa tutti e due. Cioè, e chi mi ha cominciato a un pochettino a mantenere gli animi, cioè c'è un pochettino più tranquillo. Dai, finiti di nera, bomba! Dai, che sono morta allora, ci mancherebbe. A volte capita così nel circolo, lo sai. Qualcuno capisce per sbaglio le cose, capito? Abbassa un po', faccio un casino con la ventola. Adesso bene va, aspetta un attimo, così va bene. Benissimo Antone, ma io te l'ho chiesto, dai per cortesia, dai, c'è gente qua, c'è tutti buoni in chibi, se voi ce l'avevi il posto, perché vieni a venire qua con me? Cioè, dai per cortesia, cioè, da ragione un bacio di burro, c'è che demanetti, vieni in nera, bomba, ma vai, a me non mi dà le balle, io non sono quelli che vengono qua, no. Fate da brave, poi abbiamo risolto tutto, ci siamo bevuti una birra a testa, abbiamo risolto tutto, però non andava così. Ma nei circoli così, oh, sai che c'è sempre quello lì che mezzo bevuto, lo gira le palle, passa da una parte all'altra, capito? Capa, ma a me come devono stare calmi, devono stare? Cioè, ti hai detto quasi doccio a me, mi hai detto, a cose che ti va pure da bravo dummi. Non mi rompi di cazzo perché io non ti sto facendo niente, se no passi mai fatti, no? È logico. La questione è quella, se la prendo le balle, a un certo punto vai le mani, capito? Ma di solito si evita una cosa del genere, già lo sai anche tu. Capa, secondo Eddie, secondo loro io dovevo avvisare loro, andare, cioè, ma uno, cioè, siamo uomini, siamo bagliacci, cioè io ti ho detto perché c'è, cioè, ti ha giudito, qualcosa, se da voi tu ti comporti come ti comporti, cazzo non va bene, cioè o siamo uomini o siamo sbagliati, io devo venire da te, padrone dello circolo, dirti cazzo che tu, chi ti ha fatto qualche cosa, ma insomma, ma cosa vogliamo fare? Sì, vabbè, ma voto non è che te la accorgi tutti quelli che te lo sai anche tu, ma non c'è 10 persone, da cosa di niente. Cioè giro a parte, giro all'altro, uno ti chiede un abitato, ti chiede cose, cosa del genere, ma a un certo punto non ti segue più, capito? Devi capire anche come si chiama, quello che c'è il circolo, e invece a seguirti. No, ma non era per seguirmi, Antonello, non era per seguirmi. Non è per seguire, non è questo qua, il fatto non è questo qua. Il fatto è che loro volevano che gli avvisassi perché ha fatto quel gesto. Ma o siamo uomini o siamo pagliacci. Io, se permetti, mi difendo da per me. E se te lo dico che le cose non vanno, poi alla fine di ultimo, a fine serata mi ha chiesto scusa. Mi ha chiesto. Però prima hai fatto un dogo. Misure indamettamente, bianco per me. Sì, ok, fai, fai, non c'è problema. Chihuahua. Chihuahua, chi è, chi è? Chihuahua. Ah, ciao, cla. Ehi, ehi, ciao, buonasera. Ma funziona ancora questa radio, sì? Sì, sì, a voglia. Era appena accesa, blu, 10 watt. Io ce ne sono un giro di quelle radio. Me le stanno regalando per aiutare tu. Anche le FT250 a Checkers. E quello voglio un becco, 250 euro. Io ho scritto, asco fa la cosa, attaccate il culo. 250 euro, ho detto, le FT250. Ma tu sei tutto scemo, io ho detto. Ah, ecco, poi io venuta, già stanno guastando quelle poche. Due ne ho pensate, lascia perdere. No, non mi interessa più la radio, a me no. La roba è questa, quando funziona, funziona, quando non funziona, è un po' comodo. Va bene, lascia anche te salutare, con chi sei? Con Antonio sono, questa domanda. Ho visto poi stamattina una cosa, uno, cioè stamattina, poco fa, la verità, no? Un conto di 4.200 e voleva e passa euro. Io ho scritto ascolta, gli ho detto, il conto di 4.000 ce l'ho anch'io, io ce l'ho confrontato io, ho detto 3.900, gli ho detto. Se me ne lasciano 50, gli ho detto, anche il resto siamo a posto, gli ho detto. Non mi ha risposto. No? Io devo dire che non interessava, se no gli attaviò il puscio. E vabbè, ma cosa ne fai, cosa ne fai, cosa ne fai, oramai. Tutto disarmo, perlomeno io no, radio non lo sto facendo più. Gappa gappa, già va bene, salutami Antonio, dai, rimango in Corix che ce l'ho a fare alcune cosette, semmai. Entro dopo a salutarvi, ciao. E va bene, ok, da. Allora, ci sentiamo da postare. Saluto anche a te. A dopo. Ehi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Hola. Oh, Antone, ci sei? Antone. Chihuahua. Buonasera. Com'è, Anto, com'è? Minchia, io un giorno non ti sento, vabbè, io non sto accendendo più. Bene, bene, piano piano. Tutto a posto qui, via, sono contento. Serate, facendo queste. L'ho fatto quella là, ho fatto, vabbè, ho portato sulle luci. La gomugone e cosa. E poi, adesso vediamo. Non mi ha chiamato ancora nessuno. Magari mi chiameranno adesso a fare qualcosa. Nel frattempo mi sono comprato altre due casse più potenti. Avanti chi zocca. Buoni tutte e quattro, grazie, vado a tutto. adesso al 2022 si sa solo una cosa, che sicuramente dobbiamo fare l'importa a Sant'Antonio. Capito, Dio. E abbiamo piano piano di pubblicizzare un po', cercare di far andare la cosa, e poi però piano già ti chiamano, eh. L'importante è c'è tutta l'attrezzatura. Capa, no, già ne ho. Queste casse sono più grosse, sono. E che ti toccano in me. Adesso devo aspettare che qualcuno mi chiami. Adesso non mi porto via in giro. Io. Sai, aspetto quel sugo. Aspetto, vediamo un po' cosa succede. Infatti. No. Guardate, se non si avrà tenuta. Se ti paghi, prego, se non mi paghi ti arrangi, lo già, non ti piace a me. Cappa. Se mi paghi già vi vengo via, logicamente non è che ci vado così, no? Perché la gente ha il vizio di prendere per il culo, una mi vorrebbe dare 50 euro, sai cosa l'ha giusto? Io per 50 euro non mi bevo manco il karaoke, gli ho detto. 50 euro non ti piace, manco l'impianto. Sono 200-300 euro a serata, non stai scherzando. Se lo fai a un amico, 200 euro, va bene, ma no, 50 euro, ma con il gas di piazzo. Cappa, no, veramente, no, ma la gente, guarda, la gente è un po'... La gente è troppo faccia di guru, no, non esiste. Anto, io non tiro la croce al mulino, capite? C'è da un amico, qui, là, pensano di... Se le cose si fanno bene, se no ti arrangi e vado davanti. Cappa, purtroppo è così, la gente è troppo vacillosa. Ma qua se mi avresti detto fammela anche per 150, gliela avrei fatto lo stesso. Proprio perché vaggiolo con il denaro, vero? Ma dimmi 50 euro, dico, hanno ammazzate. Infatti, poi dice la verità, mi, tanto ciò questi sono disponibili, non la fai stasera. Mi decidi se farlo o no. Ma se ti proponi già tu, col prezzo, ti do questi, no? Il prezzo lo faccio io. Se no te la vedi in gomma di vostra mano. Com'è la frequenza? Sta entrando gente? Poco fa stavo parlando un pompogno, no, ma già ogni tanto già entra. Mi ti ho mandato una foto, mi. Ti ho mandato, aspetta, guarda un'altra. Mi guarda. Aspetta. Allora. Uno. Ecco. Queste sono le altre. Ti ho mandato le foto. Mi aspetta, c'era il veranda al telefono, vado a prenderlo. Ah, è mazza brutto, secondo te, se li piace tutte e quattro. Penso proprio di sì, aspetta che le guardo, che non ho il telefono qua. Belle massicce sono belle, sì. E quelle, vabbè, ne avete altre due, metti anche quelle lì che si è a posto. Se voglio le posso attaccare a cascata, capito? Praticamente allora due vanno dal mixer, passo i cavi del Canon, dalla cassa attacco l'altro Canon, maschio e femmina, e passo dall'altra parte. Vanno tutte e quattro, se voglio. Tutte e quattro deve essere una bella battosta. Sono casse da usare fuori, all'aperto. Ma tu già la stai andare anche dentro casa? Capo, la stadia era di rimandi tutto, no? Ne ha attaccato quattro. Mamma mia, che attenzione, non so se la capisci gli archivi. Oia. Beh, capo, mi ha fatto piacere sentirti. Mi ha chiamato Sara che è pronto a mangiare. Io vado, mi ha fatto molto piacere sentirti, ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao, un saluto mia Sara, già ci aggiorniamo, ogni tanto c'è. riuscendo a far funzionare il tuo vecchio carruzzo. Già ci sentiamo, Anto, un abbraccio, ciao. È una bomba, arrivi forte. Ok, ciao ciao. Ciao, ciao Anto. Claudio. Ehi, Gianfra. Sì, ciao anche Antonio. Puoi passare là un attimino, che devo provare una cosa? Sì, aspetta che lo prendo, vediamo se è carico.